Smith, am de piacir natibidu, lil dan il program storico uta satei, li ati shanda dret in Sydney Town Hall, di semiata nata tuliei, giova Sydney, Newcastle, Wollongong. Ci fu col semiata per, ta Brisbane, u anche ta Malta. Merhaba lil kulhat. Dan il program u alewe shandira diretta mill'Australia lei Malta, u eti sir bil cooperazioni al management al special broadcasting service carnevale 380 organizzato mi diventa New South Wales uscendo il Malta il festival tra canzonetti originali maltine e che si il presenta dall'eccellenza tachom il governatore generale e tal commandment all'Australia Sir Ninian Stephen o Lady Stephen o Mr. Dean Distinti o mi itta maltine di Jeremy Madwell Sydney Wollongong o Central Coast. Dan huwa Norman Hamilton. U Josephine Zammit Cordina. Li minn Malta qegħdin insemmulkom. Insemmu li daw kollha miġburin fis-Sydney Town Hall fi New South Wales. It-tisima tagħna tmur ukoll għas-semmija kollha tar-radju etniku 2A f'Sydney, kif ukoll is-semmija tax-xandir Malta. U għall-unur tagħna li permezz tal-Maltese Australian Welfare and Social Association u bil-kooperazzjoni tal-Special Broadcasting Service tal-Australia, kif ukoll dik tax-xandir Malta. Għal darbohra għed nerġonu naqdu ma l-Australia per mezz ta' trasmissjoni diretta. Fil-waqt niftakar kem tkellimt ma' ħafna minkom personali. U koll fuq il-radju meta fil-bidu ta' din is-sena kont ninsab fostkom fl-Australia. U min jaf kem il-darba għaddejt minn dejn is-Sydney Town Hall. Inħoss li huwa wkoll unur li llum qed naqdu magħkom f'dan l-avveniment li fakkar il-mitsena ta' emigrazzjoni Maltija organizzata lejn l-Australia. Dan huwa avveniment li lilna jfakkarna mhux biss f'dan iż-żmien li għadda li matulu ġew stabbiliti rabtiet bejn Malta u l-Awstralja, iżda jfakkarna wkoll u jnistel fina sodisfazzjon li qatt ta' Maltin li marru l-Awstralja taw is-sem tagħhom fl-iżvilupp ta' din l-art.